okusemhlabeni okusemazulwini okuphansi kwamanzi kuvela passato por tutto Jehova ni na na na na sta champia sema ma sa buona sulla pasulu ya yeah, ya yeah.